Marco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi parliamo di una grande donna, una donna ribelle, indipendente, femminista, irriverente, esibizionista, di una visionaria. È una donna minuta, non certo bella, appassionata, sofferente per tutta la vita. Stiamo parlando di Frida Kahlo, colei che è riuscita a trasformare un dolore atroce, un dolore fisico che l'ha accompagnata per tutta la vita, in una forma di espressione artistica senza pari. È la pittrice messicana più celebre al mondo, una donna che amava la vita, si augurava di uscirne gioiosa e di non tornarci mai più, almeno così scrisse nelle ultime righe del suo diario poco prima di morire. E spero alegre la salida, y espero no volver jamás. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La maldita cucaracha es un animal muy necio, que anda metiendo la pata en la guerra y el comercio. Ya murió la cucaracha, ya la llevan enterrada, entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Frida Kahlo nasce il 6 luglio del 1907 a Coyoacán, all'epoca un sobborgo di Città del Messico. Il padre è un fotografo nato in Germania, la madre è una benestante messicana. E lei ha sempre raccontato di essere nata nel 1910 perché voleva sentirsi profondamente figlia della rivoluzione messicana di quell'anno. Il 1910 è una data importante per il Messico. Aveva due sorelle maggiori, Matilde e Adriana, una minore, Cristina, due sorellastre, Maria Luisa e Margarita, che vivevano in convento. Del padre, descrivendo un suo ritratto di lui nel 51, a 10 anni dalla sua morte, Frida Kahlo diceva così. Ho dipinto mio padre Wilhelm Kahlo, di origine ungherese germanica, di professione artista fotografo. Era generoso di carattere, intelligente e distinto, coraggioso, in quanto soffrì per 60 anni di epilessia, ma non smise mai di lavorare e combattere contro Hitler. A 6 anni Frida viene colpita da una poliomielite che la costringe a letto per un anno e le rende una gamba più corta dell'altra, che è un difetto grave che durante l'adolescenza la rende spesso vittima di scherno. Eppure proprio da ragazzina manifesta una personalità forte, un carattere deciso, un grande spirito indipendente ma anche artistico. È una a cui non piacciono le regole. All'inizio studia in una scuola tedesca, sogna di diventare medico e nel tempo libero inizia a dipingere per divertimento, soprattutto i ritratti dei suoi compagni di studio. Siamo nel 22, lei viene ammessa nel migliore istituto superiore del Messico, la Escuela Nacional Preparatoria, diventa l'unica ragazza che fa parte del gruppo studentesco dei Los Chachuchas, che sono così chiamati per i loro berretti, si interessano di letteratura, sostenendo idee socialiste e nazionaliste. Lei non diventerà mai un medico, ma lo studio dell'anatomia lascerà tracce indelebili nella sua pittura. E in questo periodo molti artisti iniziano a esigere un'arte messicana indipendente, lontana dall'accademismo, evidenziando nel loro lavoro le origini messicane. È una vera e propria rivalutazione dell'arte popolare. In questo contesto trova spazio l'arte dei murales, Uno dei maggiori esponenti di questa forma pittorica è Diego Rivera, che Frida vede al lavoro nel 22. Lui sta preparando il suo primo murale nell'anfiteatro Simón Bolívar della Escuela Nacional Preparatoria. Con lui c'è una donna seminuda che fa da modella, ma la moglie Lupe, che conosce bene il marito e i suoi tradimenti, quando arriva a portargli il pranzo e lo vede con la bonazza seminuda, gli fa una scenata di gelosia e intanto nascosta Frida assiste a tutto. Perché è ancora qui? Eh? Dimmelo. Dimmi, mio amore, stai pensando di fartela dopo colazione o te la sei già scopata? Lupe, per favore, non cominciare. Tu credi che io non sappia quello che fai? Mi hai preso per un idiota. Non posso lavorare così. Sì che puoi. Vattene! E non tornare a casa. Non tornare a casa per propinarmi una delle tue filippiche sull'artista e sul popolo e sulla tua rivoluzione del cazzo. A te importa solo di te stesso. Niente pranzo oggi. Anche se forse potrei mangiare te. Altre volte ho mangiato carne di femmina. Sì, come ripieno delle tortillas. Attento, Diego, Lupe sta tornando! Maledetti teppisti! Avanti, piccoli anarchici! Provate a fare ancora gli spiritosi se ne avete il coraggio! Vieni, Frida! Frida, vieni! Ti aiuto a essere leale, Panson. Povero Rivera, che già deve avere vicino a sé una cosa che è peggio della lebbra, cioè una donna gelosa, deve anche sottostare agli scherzi dei ragazzini. E tra questi ragazzi ce n'è uno che si chiama Alejandro Gómez Arias ed è un ragazzo di cui Frida si innamora in quel periodo. Lui è uno studente di diritto e un giornalista, ma è anche l'ispiratore di un gruppo di sostenitori del socialismo nazionale. Il 17 settembre del 1925 è una data che cambia per sempre la vita di Frida Kahlo. È un brutto punto di caduta. Lei ha 18 anni, è all'uscita da scuola, sale di corsa su un autobus insieme al suo amore, ad Alejandro. È serena e piena di sogni. Durante il tragitto l'autobus, che è un mezzo arrivato da poco a Città del Messico, si scontra con un vecchio tram e si schiaccia contro un muro. L'incidente è gravissimo, diverse persone muoiono sul colpo, Frida rischia di morire. Quel giorno Frida lo ricorda così. L'incidente avvenne su un angolo, di fronte al mercato di San Juan, esattamente di fronte. Il tram procedeva con lentezza, ma il nostro autista era un ragazzo giovane e molto nervoso. Il tram, nella curva, trascinò l'autobus contro il muro. Io ero una ragazzina intelligente ma poco pratica, malgrado la libertà che avevo conquistato. Forse per questo non valutai bene la situazione né intuii il genere di ferite che avevo. Non è vero che ci si rende conto dell'urto, non è vero che si piange. Io non versai una lacrima. L'urto ci spinse in avanti e il corrimano mi trafisse come la spada trafigge un toro. Un uomo si accorse che avevo una tremenda emorragia. Mi sollevò e mi depose su un tavolo da biliardo finché la Croce Rossa non venne a prendermi. Il falco e il gabbiano. Abbiamo lasciato Frida Kahlo destinata a morire a 18 anni in un drammatico incidente tra un autobus e un tram. È il 17 settembre del 25, Città del Messico, ed è un giorno che cambia per sempre la sua vita. La colonna vertebrale si spezza in tre punti, le si frantuma il collo del femore, si incrina alcune costole nella gamba sinistra. I medici riporteranno 11 fratture. L'osso pelvico viene rotto in tre punti, il suo corpo viene trafitto da un corrimano che le entra nel fianco e le esce dalla vagina. Il piede destro è totalmente schiacciato, nessuno sa se riuscirà a cavarsela. Si sveglierà dal coma solo 3 settimane dopo il giorno dell'incidente e rimarrà 3 mesi inchiodata a un letto d'ospedale. I genitori non riescono a sopportarne la vista, sua madre la rivedrà solo in barella quando viene riportata a casa. È costretta all'immobilità, completamente ingessata, è ferma nel suo letto, ma fa di necessità virtù, perché durante quei 9 mesi legge molti libri sul movimento comunista, dipinge molto. È un incidente che le provocherà un dolore costante nel corso della sua vita. Subirà oltre 30 operazioni chirurgiche. Quell'incidente che la vuole morta la restituisce alla vita e all'arte. Suo papà, infatti, tiene in un angolo del suo studio fotografico una scatola di colori a olio, un paio di pennelli in un vecchio bicchiere, una tavolozza. Lei, per ammazzare la noia, chiede in prestito quella scarna attrezzatura. Da quel momento non smette più di disegnare e di dipingere. Il suo primo lavoro è un autoritratto che poi regala a Leandro, il ragazzo di cui è sempre innamorata. Sai de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. No dejaré. Frida su quel letto non è la donna più desiderabile del mondo. Così Alejandro inizia a rallentare le sue visite e un giorno le comunica una scelta che la farà soffrire ancora. Entra pure, Alex, ti sto aspettando. Come ti senti? Come se mi avessi investito un autobus. Vieni, sciocchino, vieni, vieni, vieni vicino a me. Spengler, perché è quello che ami di più. Schopenhauer, perché è giusto che tu lo legga. Oh, Alex, sei tu che io adoro. Mi sei mancato da morire. Al dottore ho detto che è stata quell'asta a farmi perdere la verginità. Scommetto che ti ha creduto. Che c'è? Mia zia e mio zio stanno per partire per l'Europa e mi hanno chiesto di accompagnarli. Ma è meraviglioso. Quando dovresti partire? Presto. Verso la fine del 1927 Frida riprende una vita quasi normale. Trova i suoi compagni che nel frattempo frequentano l'università e svolgono ancora politica, partecipano a incontri con i comunisti cubani in esilio in Messico. Quando finalmente lei torna a camminare con dei dolori che la accompagneranno per tutta la vita, lei ha molti autoritratti in casa, perché nei mesi in cui è stata costretta a letto ha dipinto ore e ore. Pensate che i genitori le avevano regalato un letto a baldacchino con uno specchio sul soffitto, di modo che potesse vedersi e dipingersi osservando e reinterpretando la sua immagine riflessa. Nei primi mesi del 1928 Frida decide di andare dal pittore Diego Rivera, ricordate quello di murales, quello che lei aveva definito panzone, ma adesso questa ragazza minuta e forte vuole avere il consiglio di Rivera e un suo giudizio e soprattutto sapere se può andare avanti a dipingere oppure è il caso di trovarsi un altro lavoro. Ecco il loro incontro. Signor Rivera! Diego! Chi sei? Che cosa vuoi? Devo parlare di una cosa importante con te. Sto lavorando. Aspetto. Non ho tempo per chiacchierare con gli studenti. Non sono uno studente, Panson. Che c'è? Senti, non sono venuta qui per giocare o per sedurti. Ho dipinto dei quadri e voglio un tuo giudizio da professionista. Mi serve un parere sincero e spassionato sul mio lavoro. Tu sei la ragazza dell'auditorium. Sì, infatti, ma non c'entra più niente adesso. Ah. Voglio soltanto una tua opinione. Che ti importa della mia opinione? Una vera pittrice non riesce a vivere senza dipingere. Dipinge fino alla morte, chiaro? Io devo lavorare per guadagnarmi da vivere. Quindi non ho tempo per gingillarmi solo per vanità. Se non sono abbastanza brava, dovrò fare qualcos'altro per aiutare i miei genitori. Il migliore lascialo qui. Vai a casa e dipingine un altro. Se questo vale qualcosa, lo vengo a vedere nel mio giorno libero. E se ti dicessi che la pittura al cavalletto come questa è finita? Che il suo destino è la spazzatura con tutti gli elitari passatempi borghesi? Ti direi che è solo propaganda. È un ottimo lavoro. Hai un vero talento. Oh, ma no, non ti ho chiesto di farmi complimenti. Voglio una critica seria. Ma io sono sincero. Questi dipinti sono molto originali. Io ho bisogno che il tuo giudizio sia sincero. Credi davvero che dovrei continuare a dipingere? Sì. Quello che abbiamo appena ascoltato è uno stralcio della pellicola Frida. Sì, perché la storia di Frida Kahlo è di quelle che convincono perfino Hollywood. Così c'è un film fatto da Salma Hayek che ha vestito i panni di Frida, diretta da Julie Taymor, un film del 2002. Comunque, l'incontro con Diego Rivera sarà determinante per la vita e la produzione artistica di Frida. Lei gli mostra le sue tele e lui la sprona a continuare a dipingere, perché aveva capito sin da subito che aveva a che fare con una donna eccezionale e con una vera artista. Frida Kahlo, tra le pittrici messicane più conosciute, è una donna particolare, battagliera, non certo bella, che riesce a trasformare una sofferenza atroce, quella di un incidente terribile che ha quando è ragazza, riesce a trasformare questo incidente in una forma di reazione e di una espressione artistica senza pari. Il destino la voleva morta a 18 anni e invece lei sopravvive e peraltro dà vita a un amore lungo e travagliato per Diego Rivera, che è il più importante rappresentante del movimento muralista messicano, 20 anni più di lei, e lei che sta diventando un'artista prodigiosa che poi fece sognare il pubblico di tutto il mondo. Lei è fragile e piccola accanto al pittore messicano che è celebre sia per i suoi murales che per la sua fede comunista. Lei è un passerotto, perfino la fama di lui sembra schiacciarla, invece alla fine è lei che diventa immortale come il loro amore. Dovremmo sposarci, lo sai? Cosa? Il fatto è che ci sono buone probabilità che siamo nati l'uno per l'altra, quindi dobbiamo sposarci. Ma tu non credi nel matrimonio? Certo che ci credo. Ho già avuto 2 mogli. Esatto. Non sai essere leale con una sola donna? Leale, sì. Fedele... no, purtroppo sono fisiologicamente incapace di fedeltà. Oh, davvero? La fedeltà è importante per te. La lealtà è importante per me. Sai essere leale? Con te, sempre. Bene, perché io ti amo, Panzò. Così nel 1929 Frida sposa Diego Rivera, che è al terzo matrimonio, gli dà la prova suprema d'amore, quella di sposarlo pur sapendo dei continui tradimenti a cui sarebbe andata incontro. Ci sposammo nel 1929, io avevo 22 anni. Io tentai, davvero tentai di adattarmi al ruolo di moglie, che era terribile allora, terribile. Dovevo trattarti come un bambino e accontentarti in tutto, in tutto. Guadalupe, l'indomabile Lupe, la tua prima moglie, mi insegnò a cucinare i piatti che ti piacevano, a servirteli in ceste, come piaceva a te. Ma prima era stata gelosa, furiosa. Tra l'altro, visti i tradimenti e le sofferenze sentimentali che subisce, anche lei vive numerosi rapporti extraconiugali con un cospicuo numero di uomini, donne, tra cui forse Tina Modotti, la militante comunista e fotografa nel Messico degli anni 20. Rivera viene invitato a New York in quel periodo di soggiorno in America. Lui sarà chiamato a dipingere un murale anche per il Rockefeller Center di New York. Frida rimane incinta, è felice, ma il suo corpo non ce la fa a portare a termine la gravidanza. Ha un'improvvisa emorragia, perde il bambino. Su quello che accade nel 32 Diego Rivera scriverà così: Frida cominciò a lavorare a una serie di capolavori che non avevano precedenti nella storia dell'arte. Dipinti che esaltavano le qualità femminili della sincerità, veridicità, crudeltà e sofferenza. Mai prima di allora una donna aveva messo su una tela una poesia così straziante come fece Frida quella volta a Detroit. Era il 1932. Avevi avuto un aborto. Non era previsto. L'incidente nel bus che ti aveva storpiata nel 1925 avrebbe dovuto renderti anche sterile, ma non lo eri. Rimanevi incinta e abortivi. La mancata maternità la scuote molto. Decide di tornare in Messico col marito e i due vivono in due case separate e collegate da un ponte, che bello, in modo da avere ognuno i propri spazi. Frida lavora come una forsennata e solo nel 1938 realizza 15 quadri. Nel frattempo lui la tradisce con la sorella Cristina, separate con due bambini. Una sera lei torna a casa e li vede assieme e per lei è troppo. In vita mia mi sono capitati due incidenti gravi. Il primo quando un tram mi ha messa al tappeto. L'altro è Diego. Arrancame la vita con el último beso de amor. Arráncala. Toma mi corazón, arráncame la vida, y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. Frida non è da meno. Frequenta il rivoluzionario russo Leon Trotsky e altri uomini, è parte attiva del Partito Comunista Messicano, dà lezioni di pittura, stringe amicizia con moltissimi intellettuali del suo tempo, molti dei quali vivono in Messico per sfuggire ai regimi europei. Nel 1939 i due divorziano, Frida si dà all'alcol, Diego torna da lei un anno dopo, malgrado i tradimenti non ha smesso di amarla. E così Diego le fa una nuova proposta di matrimonio che lei accetta con riserva. Il giorno del compleanno di Rivera viene celebrato a San Francisco il secondo matrimonio tra Frida Kahlo e Diego Rivera. Ci risposammo l'8 dicembre 1940. Accettai in cambio di due condizioni: niente sesso e niente soldi. Avevi 54 anni. Pensai, Diego non è e non sarà mai un marito, ma è un gran compagno. Gli anni passano, Frida diventa una pittrice veramente riconosciuta, però i dolori fisici si fanno sempre più sentire. Lei ha un busto d'acciaio, subisce altre operazioni, rimane per mesi immobilizzata, inizia a soffrire di depressione. Quello che il corpo sente si vedrà realizzato nelle sue opere più intense. Nella primavera del 1953 viene allestita la prima mostra personale in Messico. Ottiene un enorme successo. La sera dell'inaugurazione Frida sta molto male e il medico le vieta di alzarsi dal letto. Così va Diego a fare le sue veci. Frida però non vuole mancare al vernissage. Così si fa trasportare in ambulanza e fa portare il letto a baldacchino in galleria. Interrompe Diego e dà via a canti e festeggiamenti insieme al pubblico in una famosissima scena del film. Io non credo che ci siano state donne prima di lei che abbiano infuso una poesia così straziante sulla tela. Sta zitto, Panson! Chi è morto? Allora dov'è la musica? Come ha visto, dottorita, ho obbedito ai suoi ordini. Non mi sono alzata dal letto. Frida. Ah, dottore, se mi lascia bere questa tequila, io prometto che al mio funerale non tocco un goccio. Affare fatto. A Frida! A Frida! salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Sesso, sangue, dolore, talento, tradimenti, avventura sono solo alcuni degli ingredienti della vita di Frida Kahlo. Ma quali sono le ragioni del successo dell'arte di Frida Kahlo? La Kahlo ha avuto successo perché ha cambiato i temi. E in quel momento si parlava moltissimo di arte della rivoluzione, di arte che doveva cambiare il mondo, e evidentemente ne è un esempio quello di Diego Rivera, di Orozco, di Siqueiro, cioè degli altri artisti messicani della sua epoca. Lei invece comincia a parlare di se stessa, di motivi molto personali, arriva addirittura a parlare di aborto, di violenza sulle donne. Sono temi molto intimi e molto personali che però oggi ci sono molto più vicini. Cioè, oggi l'arte rivoluzionaria ci interessa pochissimo, quella che parla di noi e ne parla con una verità di cui la Kahlo è veramente una campionessa ci interessa molto di più. Questa era Valeria Palumbo, giornalista, storica delle donne. Cosa insegna, secondo Valeria Palumbo, la vita di Frida Kahlo a chi si avvicina a lei e alla sua arte? Il grande insegnamento di Frida, secondo me, non sta tanto nella resilienza, che è un termine che oggi si usa molto, ma nella resistenza. Frida è una donna che ha affrontato le enormi, incredibili difficoltà della sua vita, dalla malattia, l'incidente, ma anche i tradimenti di Diego Rivera, anche le vicissitudini legate al Messico di quel periodo, con una voglia di lottare che non è mai finita. Anche quando poi le fu tagliata una gamba, negli ultimi periodi le sofferenze erano veramente atroci, non si è mai arresa. Però non è solo questo, cioè non è solo una campionessa di resistenza, è anche la dimostrazione che la vera arte ha bisogno di una grandissima libertà mentale, ad essere una donna libera, ha bisogno di trasgressione, ha bisogno anche di nuovi territori. Ecco, lei è stata sicuramente, questo abbastanza in linea col suo tempo, un personaggio più forte della sua stessa arte, però sicuramente ha avuto anche la capacità con la sua arte di entrare in un mondo tutto nuovo. Eh sì, intanto come ha già detto Valeria Palumbo, i dolori non sono più sostenibili. Così pochi anni prima della sua morte, la gamba destra ormai in cancrena le viene amputata e la fine arriva nel 1954 per embolia polmonare. 17 giorni prima del nostro 25esimo anniversario mi desti l'anello che mi avevi comprato come regalo. Ti chiesi perché e tu rispondesti: sento che ti lascerò molto presto. La mattina dopo, era il 13 luglio 1954, te ne andasti. Avevi 47 anni. Album dei Coldplay del 2008, la celeberrima Viva la vita or death and all his friends, si ispira a una celebre frase che la Kahlo scrisse sul suo ultimo quadro 8 giorni prima di morire, intitolato appunto Viva la vita, e raffigurante una sorta di natura morta con colorati cocomeri e frutti tropicali. Il frontman dei Coldplay, Chris Martin, ha commentato così la scelta del titolo: lei è sopravvissuta alla poliomielite, ha una spina dorsale rotta e un male cronico per decenni, ha avuto un sacco di problemi e poi ha iniziato questo grande quadro a casa sua che diceva viva la vita. Mi è piaciuta questa audacia. Una storia meravigliosa, piena di colpi d'ala, perché il colpo d'ala è anche sapere reagire alle avversità della vita, anzi capitalizzare le proprie difficoltà per fare della propria vita un grande capolavoro. È quello che ha fatto Frida Kahlo. Se avete altre storie da proporci, fatelo, scrivete al Falco e Gabbiano, al nostro sito, ai nostri social, insomma, se volete ci trovate. Ciao, a domani.